aveva bussola, né un punto, né virgola. Andava in giro scalzo, andava, saltava come una trottola. Pasolini ad Assisi lasciò i vestiti nella piazza e andò per la sua strada, tracciò una nuova rotta. Dall'alto del tuo volo la terra è uno spicchio e ti lasci dietro certezze, non guardi più nello specchio. Chi cerca verità deve sapere vivere nel dubbio, tra la nebbia dell'aurora, tra le pozzanghere del fango. La strada è piena di rucola, il cielo è un pezzo di favola, gli uccelli ti mostreranno il cammino, mentre la luna piano piano ti farà l'occhiolino. Dall'alto del tuo volo la terra è uno specchio e ti lasci dietro certezze, non guardi più nello specchio. Chi cerca verità deve sapere vivere nel dubbio, tra la nebbia dell'aurora, tra le pozzanghere del fango. Vai uomo vai ai confini dei tuoi sogni a raccogliere le stelle, a fissare le più belle. L'orizzonte è una linea dritta, sembra che tocchi ma è una truffa. La vita invece è una linea storta, non rimanere a bocca asciutta. Dall'alto del tuo volo la terra è uno spicchio e ti lasci dietro certezze, non guardi più nello specchio. Chi cerca verità deve sapere vivere nel dubbio, tra la nebbia dell'aurora, tra le pozzanghere del fango. Annienta il tu devi di Luciano, che cita Nietzsche, Isaia, i salmi, come le dita della mano. Della foglia leggi il respiro, dal frumento cogli il profumo. Non lasciare mai il tuo sguardo sopra i binari o sotto a un treno. Dall'alto del tuo volo la terra è uno spicchio e ti lasci dietro certezze, non guardi più nello specchio. Chi cerca verità deve sapere vivere nel dubbio, tra la nebbia dell'aurora, tra le pozzanghere del fango.